America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. La Marsigliese ha accolto Donald Trump a Parigi. Il presidente americano si è rifugiato nelle celebrazioni per il 14 luglio, grande ricorrenza della presa della Bastiglia, della rivoluzione francese. Ecco, mi ricordo che l'ultima volta che un presidente americano partecipò alle celebrazioni del 14 luglio fu George Bush Senior. Pensate, era il 14 luglio del 1989, prima ancora della caduta del muro di Berlino. Un altro mondo, me lo ricordo come fosse adesso, fuochi d'artificio, bande, celebrazioni, feste, ed era in occasione di un G7 che era appunto ospitato dalla Francia. Beh, per Trump ovviamente, con quello che succede in patria, col nuovo assedio che ha creato sconquasso alla Casa Bianca, ripercussioni di ogni genere sui media, addirittura attacchi, accuse di tradimento, addirittura da parte di Tim Kaine, che ricorderete era il candidato con Hillary Clinton alla vicepresidenza americana, di tradimento perché il figlio si era messo d'accordo coi russi che volevano appoggiare la corsa di suo padre e che quindi erano pronti a dare alla campagna di Donald Trump informazioni potenzialmente criminose su Hillary. Ecco, Trump a questo punto deve dividere la sua missione, la sua terza missione europea, perché a parte il rifugio, insomma, cercare di uscire da quella atmosfera pestilenziale in cui il povero Trump si trova a Washington è sicuramente un diversivo. Però c'è anche l'impostazione politica e quindi vorrei concentrarmi un attimo su questo, perché Trump starà alla fine 2 giorni a Parigi e l'idea che ci siamo fatti un po' tutti noi che seguiamo gli affari transatlantici è che cercherà di trovare una sponda su Macron e sul governo francese, beh, per portare ad avere un interlocutore privilegiato nel contesto dell'Europa continentale. Certo che Trump si trova in gravi difficoltà, il Russiagate ormai sta dilagando e proprio il giorno prima del primo articolo del New York Times di sabato scorso, c'era stato un incontro un po' imbarazzante tra Vladimir Putin e Donald Trump. Но у нас общее мнение, которое мы сегодня подтвердили, о том, что разногласия по ряду внешнеполитических... Ecco, qui abbiamo sentito Lavrov, il ministro degli esteri russo, che subito dopo l'incontro tra Vladimir Putin e Trump disse, a proposito del Russiagate, dice no, si sono chiariti su tutto. Vladimir Putin ha detto che noi non c'entriamo assolutamente niente e il presidente ha capito che in effetti è stata tutta una montatura politica e Trump stesso in effetti ha parlato del Russiagate con Vladimir Putin, ma poi quando Putin si è difeso, ha detto no, non c'entra niente, non lo ha incastrato e questa cosa era già stata presa male negli Stati Uniti. Il destino ha voluto che il giorno dopo, sabato, il New York Times uscisse con le prime indiscrezioni che coinvolgevano il figlio di Trump in un rapporto con la famosa avvocatessa russa e dopodiché abbiamo avuto nei giorni scorsi le email che inchiodavano in modo diretto non solo il rapporto tra il figlio di Trump e questi emissari del governo russo, dicevano alcuni, ma addirittura il fatto che fosse stato esplicitato che il governo russo voleva aiutare Trump per sconfiggere Hillary Clinton. Ecco, qua entriamo in un contesto molto grave dal punto di vista giuridico, perché qui non si parla più di ostruzione di giustizia, si parla della possibile violazione di alcune leggi federali sulle elezioni americane che impediscono agli stranieri, figuriamoci poi ai governi stranieri, ma comunque in generale agli stranieri, di aiutare da un punto di vista finanziario o in altri modi, materiali o immateriali, un candidato nelle elezioni americane. Ecco, ci sono esattamente 2 leggi federali che regolano questo rapporto e le email che abbiamo visto nei giorni scorsi, in qualche modo potrebbero rientrare in quella categoria. Perché? Dal punto di vista giuridico è vero che questo incontro con l'avvocatessa non ha prodotto nulla ed è vero che è stato soltanto un incontro ed è anche vero che in sé per sé questo incontro non è illegale. Ecco però che c'era una collusione. Di nuovo, la collusione dal punto di vista giuridico non è un aspetto criminale, però se la collusione diventa cospirazione per cercare di eludere delle leggi federali, allora lì si entra nel territorio potenzialmente criminale e questo è il vero problema con cui si dovrà confrontare Donald Trump, perché la domanda che tutti si pongono: ma è possibile che il candidato non sapesse che il figlio si era incontrato con questi emissari russi, tra l'altro legati proprio al presidente da trascorsi per cercare di portare a Mosca il concorso di Miss Universe? E lì Trump dovrà stare attento a quello che dice, perché se dice che non sapeva nulla e poi invece viene fuori che sapeva qualcosa, allora la cosa davvero si andrà a complicare. Non solo, se il giovane Donald Trump poi non è entrato nel governo americano, il problema si pone anche per Jared Kushner, il genero di Trump, il quale invece è nel governo americano. Insomma, questo per dirvi che cosa? Beh, questo per dirvi che a Washington regna il caos. Sentiamo. Our position is that no one within the Trump campaign colluded in order to influence the election. They're constantly looking for ways to undermine the president and delegitimize his election victory. Ecco, questa è Sarah Huckabee Sanders, portavoce di Trump, che risponde a un giornalista che domanda, dice: ma qualcuno ha detto che forse c'è tradimento? Ma che tradimento? Queste sono cose ridicole. Donald Trump Jr. non ha cospirato con i russi. E assolutamente questa cosa è stata portata fuori dalle dovute proporzioni. Però, come vi dicevo, alla Casa Bianca regna il caos. Donald Trump di sicuro è furibondo, ha aggredito con furia il suo avvocato di sempre, Mark Kasovic, e si dice che potrebbe anche licenziarlo. Lo stesso avvocato e la sua squadra a sua volta si lamenta del fatto che il presidente si lascia influenzare dal genero. Dunque abbiamo una tragedia quasi di proporzioni shakespeariane che si sta sviluppando alla Casa Bianca. Tutto questo che cosa provoca? Beh, provoca una gran confusione nell'agenda legislativa. Si sta cercando un compromesso al Senato per modificare la legge sanitaria, per vedere se si riesce ad arrivare a una conclusione su quello, ma gli altri progetti, quello per la riforma fiscale, il progetto per gli investimenti infrastrutturali, beh, slittano tutti, perché quando la casa brucia è più importante preoccuparsi di spegnere l'incendio che di mettere fiorellini o progetti o piantare qualche pianticella nel giardino intorno. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, Donald Trump, devo dire, è arrivato nella Ville Lumière, la città delle luci, Parigi, doveva essere un viaggio spensierato, il recupero di un'alleanza, e invece, beh, il presidente arriva malinconico, quasi rifugiandosi da quello che sta capitando nella capitale, e dunque, beh, celebrando comunque questa tappa francese. Mi viene in mente una canzone struggente, malinconica, anche un po' romantica se vogliamo, molto adatta a questo momento particolare in cui si trova la Casa Bianca, del grande Nat King Cole, Autumn Leaves. The falling leaves drift by the window, the autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.